Chiudi la porta, discendi le scale, accendi il motore, il freddo ti assale. Luci fioche nelle strade, intravedi l'alba, spazi profondi, s'allarga la mente, limpidi cieli, il sole risplende, più non scorgi ciò che lasci in fondo alle tue storie. Autostrade dentro gli occhi, luminose traversate, musiche di firmamenti da un oceano a un altro. Quanti volti che visiterai, i tuoi viaggi di individuazione, misteriosamente presto abbandonerai vecchi segni di desolazione. Limpidi cieli, paesaggi urbani, sentieri impervi, porti alle mani, si risveglia l'anima. Gli ampi orizzonti delle tue città. Quanti echi, quanti volti che visiterai, i tuoi viaggi individuazione. Curiosamente presto abbandonerai vecchi segni di desolazione. La luce risplende, risuona forte, la vita ritorna, ride alla morte. Gli ampi orizzonti, yeah.